Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Ogni domenica alle 12 su Controradio e nel quinto elemento su controradio.it. Contatti restiamoanimali@controradio.it. Domenica 12 maggio 2013, 88esima puntata di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free. Oggi ci accompagnerete nel nostro piccolo viaggio nel pensiero gentile verso ogni vivente. Incontreremo una nutria domestica, pedaleremo attraverso le Alpi per portare la nostra solidarietà ai tori francesi. Constateremo con piacere che oltre ai paradisi fiscali, alla Nestlé e al Groviera, la Svizzera ci ha regalato anche un pensatore utile all'umanità. Recensiremo l'ultimo libro di un neuroscienziato filosofo antispecista. E infine, rigenerato il pensiero e saziato lo spirito, ci coccoleremo con l'ultima proposta gastrosorridente della nostra amica, blogger straight age e mamma vegana. Ne conoscete molte altre? Se siamo riusciti a incuriosirvi, restate in ascolto mentre noi restiamo animali. I nomi di chi è restato animale oggi nello studio 2 di Controradio? Camilla Lattanzi, Valentina Reggioli e Lorenzo Guadagnucci. Visti da vicino. Non mangio mai qualcuno che conosco. Drums are still playing, I can see them marching close. Lizzie walks like a shadow and Eddie dances like a ghost. Nell'estate 2012 la provincia di Treviso ha stanziato denaro pubblico per attuare un piano di abbattimento delle nutrie accusate di provocare frane e allagamenti, dando ancora una volta carta bianca ai cacciatori. 250 cacciatori sono stati incaricati di sopprimere gli individui ritenuti in eccesso a colpi di fucile o con le trappole e il gas. Sarà un caso, ma il predatore naturale delle nutrie è la volpe, anch'essa vittima di continui piani di abbattimento, per ripristinare un equilibrio che, evidentemente, si fa di tutto per distruggere. La provincia è stata inondata da email di protesta al ritmo di 2000 al giorno. Il presidente Muraro sembra che stia cedendo alle richieste di adozione arrivate in questi giorni, al punto che è allo studio un vademecum in modo da rendere più consapevole e informato il percorso di adozione di questo simpatico roditore. Ma come si comporta una nutria addomesticata? Lo chiediamo a Samuele Venturini di Buccinasco, biologo, castorologo e compagno di vita di Willy. Willy è una nutria, un castorino, che è stato salvato ormai 5 anni or sono da morte certa, perché la mamma è stata investita da un'automobile e molto probabilmente, anzi direi certamente, era incinta e a termine gravidanza. L'incidente, purtroppo, che ha ucciso la madre, ha però fatto nascere dei cuccioli. Erano in totale 3, 2 però sono deceduti e l'unico sopravvissuto, che con il cordone ombelicale ancora attaccato cercava il latte, era proprio lui, Willy. Quindi un mio amico che ha visto la scena, per spostare la carcassa appunto si è accorto del piccolino che era nato e con uno strumento di fortuna ha reciso il cordone e ha portato appunto il piccolino da un veterinario. Poi dopo 2 giorni, tramite conoscenze, giri di chiamate, sono giunti a me, che mi occupo appunto dello studio di questi animali. Come vive? Dove vive? Che rapporto hai con lui? Bellissimo, devo dire, perché lui mi ha insegnato molto. Poi si è affezionato tantissimo a me e ovviamente a mia moglie e alla famiglia. Il rapporto che si è creato è tipicamente quello che si crea con qualunque altro animale domestico. Infatti ti ricordo che i castorini, o le nutre come vengono chiamate qui in Italia, sono effettivamente animali domestici e da compagnia in Sud America, ma anche in Polonia, in Russia e in altri stati. Pensa che lo erano anche qui da noi fino agli anni 60, in concomitanza con gli allevamenti per la pelliccia del castorino. Lui si fa capire bene, emette vocalizzazioni. Vive in un appartamento, però lo portiamo anche fuori al parco. Risponde al suo nome, quindi se lo si chiama Willy, lui emette un verso e arriva da te. Sa quali sono le stanze dove si fa il bagno, per esempio, perché lo mettono a vasca da bagno. Sa dove si dorme, quando è l'ora di dormire e anche quando è l'ora di colazione. Se tardiamo un attimo ad alzarci dal letto, per esempio, è lui che ci viene a svegliare con i suoi versetti. Quindi ecco, è proprio uno di famiglia. Essendo si è abituato fin da piccolo alla vita con l'essere umano, si è adattato appunto a noi, quindi ci segue i nostri piedi. Comunque non è un animale così veloce, certo può scappare quando si sente in pericolo, ma Willy non considera noi un pericolo. Certamente c'è da dire anche che, essendo un animale comunque selvatico, anche se adattato alla vita domestica, è curioso, quindi tende comunque ad esplorare l'ambiente circostante. Willy si è svezzato molto tardi, quindi l'imprinting, il suo attaccamento alla famiglia per quanto riguarda il fattore affettivo a livello umano, è molto forte. La cosa migliore che si potrebbe fare una volta che si recupera questo animale è accudirlo, perché la nutria si adatta moltissimo alla vita domestica, e poi chiedere alla polizia provinciale o all'ente competente una sorta di deroga, un'autorizzazione per regolamentarne la detenzione, previa però sterilizzazione dell'esemplare. Così almeno si è sicuri che non crea nessun tipo di problema. Io poi ho avuto modo, conoscendo Willy e studiando, essendo biologo, di pubblicare e fare divulgazione su questa specie di animale. Per cui anche la provincia, la polizia provinciale di Milano, sa della mia situazione e davanti all'evidenza di un animale così attaccato all'uomo, non c'è nessun problema, me lo consente di tenere. Il poter recuperare questo animale da parte di privati non crea un peso alla polizia provinciale, che ha già tantissimi problemi, e non crea un peso neanche ai CRAF, che hanno già tantissimi animali da accudire e da salvare. Come esprime le sue emozioni, i suoi sentimenti questo tipo di animale? Lui è molto socievole, perché le nutre sono tra i roditori più sociali appunto che si conoscano. Emette molti versi, per esempio quando vuole le coccole, perché lui le cerca le carezze, arriva vicino con il muso, se siamo sul letto, e inizia a chiamare con dei versetti. Quando lo si accarezza, lui addirittura si butta sul fianco perché gli piace essere grattato sotto la pancia, per esempio. Sì, ci sono tanti piccoli gesti che lui fa, sembra quasi un cagnolino, ma ovviamente è un roditore, quindi con le differenze del caso. Poi lui, essendo stato salvato da piccolo, è molto legato in particolare a me, ma anche riconosce l'odore della persona, di questo mio amico che l'ha salvato per primo. Infatti ci viene a trovare una volta, per esempio, ogni mese o ogni due mesi, e Willy, quando sente il suo odore, gli va vicino e mette tantissimi versi, come se fosse lo scodinzolare di un cane quando vede il suo padrone, per esempio. Per lui siamo il suo punto di riferimento, siamo il suo gruppo. Infatti, quando capita, raramente ma capita, qualche situazione in cui lui ha paura, magari quando l'ho portato dal veterinario per qualche controllino, la prima cosa che fa è gettarsi letteralmente addosso a me. Lui non è che scappa, lui sa che io sono la sua casa, la sua sicurezza, e arriva vicino a me per farsi abbracciare. Quindi ecco, è veramente, direi, entusiasmante avere questo animale, ma ripeto, perché c'è stato una situazione di recupero. Questa esperienza io la consiglio, e infatti sono sempre il primo e sempre pronto a dare consigli e consulenze gratuite, ovviamente, a chi trova animali di questo tipo. Contrariamente ad altri animali, una nutria recuperata non soffre la condizione di cattività. Lui è un castorino, ha le zampe palmate e le sue principali funzioni fisiologiche le svolge in acqua. La vasca da bagno è più che sufficiente in appartamento per lui, e infatti fa molte sue funzioni fisiologiche lì. E come ci sale dentro la vasca da bagno? È così grande che riesce a salirci da solo? Lui, volendo, riesce ad arrampicarsi, sì, poi riesce a uscire facendo un po' di passaggi, va sul batter e poi scende da solo. Oppure, adesso che è un po' vecchietto, lo mettiamo noi. Oppure lo portiamo, per esempio, quando andiamo fuori nel parco, lo portiamo in qualche roggia, che è un piccolo corso d'acqua, e ci mettiamo io o un'altra persona ai lati, appunto, ai capi della roggia, e lui nuota tranquillamente, così si ricorda un po' del suo ambiente. Quanti anni può vivere una nutria? Mediamente in natura da 4 a 6 anni. In cattività i figli dei figli dei figli possono arrivare anche fino a 15 anni, per esempio. E Willy da 5, quindi ricade proprio nella media. Lunghissima vita a Willy. Samuele Venturini, restiamo animali? Restiamo animali. Notizie, interviste, attualità. Bike for Pets. Si chiamava così l'impresa di alcuni ciclisti animalisti che nella torrida estate 2012 sono andati da Torino a Siviglia a tappe per dire no alle corride e alle perreras spagnole. Dato il successo di quella prima spedizione, uno degli eroi sopravvissuti, Paolo Barbon, ha voluto quest'anno ripetere l'esperienza di pedalare per gli amici animali ed è partito in bici da Torino venerdì 10 maggio per essere ad Alè in Francia ieri sabato, percorrendo quindi 400 chilometri in poche ore e prendere parte alla grande manifestazione contro le corride organizzata dagli attivisti francesi del CRAC proprio in questo fine settimana. Abbiamo intervistato Paolo poche ore prima della sua partenza. Ho pensato di unire, appunto, sempre sullo stile di Bike for Pets, una pedalata che appunto mi porterà da Torino, la mia città, ad Alès, percorrendo appunto questi 400 chilometri che ci separano, per essere appunto presente il sabato mattina alle manifestazioni che si terranno lì. Praticamente si tratta di una manifestazione molto importante perché ha carattere europeo, insomma arriva molta gente, non solo dalla Francia ma anche dalla Spagna, dal Belgio, dalla Germania, pare anche dall'Inghilterra, e si pensa di essere parecchie migliaia di persone e forse si spera anche di riuscire a bloccare le corride che in quei giorni lì appunto si terranno e si prevederanno l'uccisione di diversi tori, sei tori per ogni corrida. Molti allevatori sono anche francesi e la corrida, la tauromachia è molto sentita in Francia. Purtroppo ultimamente la legge francese ha anche, diciamo così, bypassato una legge che prevede il maltrattamento degli animali e quindi di fatto dovrebbe impedire lo svolgersi delle corride, mentre invece appunto è stata la corrida considerata patrimonio nazionale francese, storico, questo stato fa sì che si possa andare oltre la legge di maltrattamento animale. E quindi la corrida in Francia esiste, si può fare ed è molto diffusa, molto di più di quello che si può pensare. Un anno e mezzo fa a Rodilan, per l'appunto in Francia, gli attivisti hanno interrotto lo svolgimento di una corrida mettendosi al centro dell'arena, sono stati portati fuori a forza dalle aficionado con la complicità della polizia. Magari si stendono e formano queste sagome che ricordano il toro con la lancia, oppure dove vengono spezzate le lance in maniera simbolica, quindi diciamo c'è una vasta gamma di tipi di manifestare. Tu a quale tipo aderirai? Possiamo stare tranquilli? Il movimento animalista non è violento, tant'è che appunto a Rodiland gli attivisti hanno subito le percosse di questi soggetti, cioè io sono, per carità, per la pace possibile, però ti difendi, ti puoi ti sai difendere. È il caso di difendere. Ecco, in maniera, diciamo, proporzionale alla forza che viene usata. Proporzionale all'offesa. Diciamo così. Senti, speriamo non sia il caso. Speriamo veramente. Vorremmo riparlare con te quando tornerai, così magari ci racconti e farai il nostro inviato ad Alès. Tu conosci un personaggio che si chiama Christophe Thomas, perché magari in Francia si pronuncia così. Sì. Ecco, raccontaci che cosa ha fatto di veramente speciale questo Christophe Thomas. Christophe, secondo me, ha fatto una cosa che passerà alla storia, perché ha adottato da un allenatore di tori da corrida, un toro da corrida, vale a dire Fagin. L'ha preso all'età di forse 2 mesi, 3 mesi, adesso Fagin ha più di 2 anni, e quando l'ha preso pesava una 50-60 di chili, adesso è sui 700 chili se non erro, e quindi è cresciuto felice e contento nel suo prato, e quello, il merito di Christophe è stato quello di dimostrare l'esatto opposto di ciò che gli affezionati vogliono fare credere, cioè che i tori sono aggressivi, sono animali che attaccano, sono animali pericolosi. Quindi, diciamo, ha sicuramente dato un bello scrollone a quello che è il credo della corrida, vale a dire che è la lotta del bene, l'uomo in questo caso, contro il male, contro la forza brutta del toro. In realtà i tori, se potessero fuggire dall'arena, tornerebbero nei campi dove sono vissuti, dove sono nati, e sarebbero lì tranquilli. Fagin è conosciuto in tutto il mondo, e diciamo è una bandiera anticorrida, perché la gente ha capito che la corrida è una grande menzogna, una grande farsa. Metteremo nel nostro blog i link dei filmati di YouTube che ritraggono Christophe Thomas con il suo Fagin, il suo bellissimo toro, sia quando era piccolo come un vitellino, sia ora che è gigantesco. E ci sono delle immagini che mi hanno molto colpite, perché c'è Christophe che corre davanti al toro. Il toro ovviamente ha mantenuto il suo apparato di corna poderoso, e Christophe corre davanti a lui con una maglietta rossa. Si vede questo toro, certo, che lo rincorre per giocare, che mai e poi mai si sognerebbe di fargli del male, anzi appoggia con molta dolcezza la sua testa. Sì, sicuro, la questione del colore rosso è l'ennesima menzogna, come lo è appunto l'aggressività del toro, lo è anche quello. La corrida è un giro di affari, dietro la corrida ci sono i soldi, le tradizioni hanno senso di esistere se sono di un certo tipo, se sono positive, se insegnano qualcosa di buono, se ricordano qualcosa di bello. Diversamente penso che debbano finire nel libro della storia, e forse nemmeno. Paolo Barbon, restiamo animali? Certo, restiamo animali, più che mai. I want to ride my bicycle, I want to ride my bicycle, races are coming your way, so forget all your duties, oh yeah. Great man always remembers his debts. If he's one. In occasione di quello che sarebbe stato il 100° compleanno di Hans Ruesch, il padre dell'antivivisezionismo moderno e anche indimenticabile autore del libro Imperatrice Nuda, si terranno in diverse città d'Italia incontri per ricordare questo grandissimo personaggio. Io Imperatrice Nuda l'ho letto e ci ho pianto sopra su ciascuna delle sue pagine. Poi non ho letto altri libri del genere, perché quello mi è bastato per le prossime 10 vite. Però l'ho letto, quando ancora mangiavo carne e vestivo con pelle e lana, quindi non ero poi così sensibile come credevo. Eppure mi è arrivato dritto allo stomaco per la crudezza con cui si descrivono gli esperimenti perpetrati inutilmente su centinaia di migliaia di animali, e soprattutto con la lucidità con cui si legge, in un periodo storico in cui non era facile come adesso avere accesso all'informazione, ben al di là dell'idea medico sperimentatore uguale a paladino dell'umanità. E credo fermamente che anche quello sia stato un mattone su cui si è costruita la mia vita, diciamo così, antispecista. Parliamo di Ruesch con il dottor Stefano Cagno, medico psichiatra e convinto antivivisezionista. Ruesch non era un medico, quindi alcuni potrebbero obiettare che le sue indicazioni, i suoi scritti non fossero sufficientemente scientifici per poter essere pubblicati, ma le chiedo, è veramente necessario essere laureato in medicina o biologia o biotecnologie per potersi dire antivivisezionisti e quindi non sentirsi obiettare, ma te che ne vuoi sapere? No, io ritengo che ormai la sperimentazione animale è talmente non scientifica, è talmente evidente l'errore che sta alla base della sperimentazione animale, che chiunque che riflette, che legge, che approfondisce la questione può tranquillamente parlare anche da un punto di vista scientifico. Chiaro che poi sugli aspetti più tecnici avere una preparazione scientifica aiuta, ma concettualmente che è una pratica sbagliata lo può capire e affermare chiunque. Esistono due argomenti, anzi io dico sempre che ne esistono tre, c'è anche quello economico, quindi c'è quello scientifico, gli esperimenti sugli animali non sono in grado di fornirci dei dati affidabili per la nostra specie, quello etico che gli animali sono esseri viventi e senzienti e quindi soffrono e hanno diritto di essere rispettati e non dobbiamo procurargli dolore o snaturare le loro caratteristiche etologiche, ma c'è anche quello economico. In una situazione come l'attuale di scarsità di risorse, investire in ricerche sbagliate vuol dire sottrarre tutti gli altri settori delle sovvenzioni che diventano a questo punto indispensabili per poter ottenere veramente dei progressi. Una delle prime domande che l'autore si fa nel libro Imperatrice Nuda, proprio il titolo di uno dei primi capitoli, è Scienza o follia. Uno dei primi esempi che lui riporta è quello del cane crocefisso per vedere l'agonia di Cristo. Forse adesso gli esperimenti che si fanno sono leggermente differenti, ma sono forse meno folli, non lo so. È chiaro che se torniamo indietro di alcuni secoli non c'è dubbio che le domande che ci ponevamo nella ricerca scientifica erano talmente semplici ed elementari, come ad esempio qual è la funzione del cuore, per cui sperimentare su un animale poteva avere anche un senso. Ma da molto tempo, e quindi da ben più di 30 anni, le domande che ci poniamo e le risposte che cerchiamo sono molto più specifiche, e quindi facendo un gioco di parole, specie specifiche. Cioè, noi non studiamo più qual è la funzione del cuore, ma ad esempio come svolge la sua funzione del cuore. È chiaro che quello di un coniglio, di un cane, di un gatto, di un topo, di un essere umano svolgono la funzione in maniera differente. Poi esistono una parte di esperimenti che sono follia vera e propria, cioè possiamo anche riportare gli esperimenti dove hanno affamato i piccioni giungendo alla brillantissima conclusione che meno gli davano da mangiare più diminuivano di peso. Ci sono alcuni esperimenti che sono follia, nel senso che sono frutto di menti perverse e sadiche. La maggior parte degli esperimenti probabilmente non risponde a questa logica, ma risponde ad una logica che è fuori dal tempo, è fuori dal 2013, cioè è fuori dal tempo della tecnologia, dell'informatica, della scienza avanzata, ecco. Quindi e da questo punto di vista possiamo definirla comunque una follia, perché buttiamo via tempo e soldi. Più avanti nel libro l'autore parla di sadismo da parte degli sperimentatori, di calvario a cui sono sottoposti gli animali, quindi insomma gli animali sono chiaramente definiti le vittime e gli sperimentatori carnefici. In realtà quando poi uno va a parlare con gli sperimentatori, molti dicono non siamo dei sadici, se potessimo farne a meno ne faremmo a meno, ma secondo lei è una risposta onesta o una risposta di circostanza? A volte potrebbe persino essere una risposta entro certi limiti onesta. Io non ho trovato un solo sperimentatore che dice ma io insomma del destino degli animali non è che mi interessa un granché. Sono tutti amanti degli animali, hanno tutti cani, gatti, li adorano. Io credo che esista un vero lavaggio del cervello, desensibilizzazione progressiva di questi ricercatori. I ricercatori che lavorano con gli animali vengono progressivamente desensibilizzati rispetto alla sofferenza degli animali e arrivano effettivamente a non percepirla più. Altre volte, in maniera quasi dissociata, è come se percepissero la sofferenza del cane che abita con loro, del gatto che abita con loro, ma improvvisamente, entrando in un laboratorio, non sono più in grado di percepire la sofferenza di quell'altro animale che tra l'altro è della stessa specie. Lewis già parlava di metodi sostitutivi e lui citava, tra gli altri, cito testualmente, simulatori elettronici, ingegneria biomedica, colture cellulari. Allora, era un visionario lui oppure, diciamo, gli interessi che girano intorno alla sperimentazione con gli animali sono troppo forti per poter lasciare, diciamo così, la presa? lui era un visionario nel senso positivo del termine, cioè lui è arrivato prima, ha avuto una visione che fra qualche anno verrà considerata geniale, mentre allora era considerato un matto, un deficiente, più o meno come il professor Croce, che peraltro era anche un medico, era professore, era primario, e che quando cominciò per primo come medico a definirsi contro gli esperimenti sugli animali, anche lì fu preso per matto. Allora c'erano dei metodi sostitutivi o alternativi, adesso ce ne sono molti di più. Ma io quando mi parlano dei metodi sostitutivi o alternativi, io però ormai faccio sempre la stessa domanda. Chi sperimenta sugli animali dice: ma cosa possiamo utilizzare al posto degli animali? Io ribalto la domanda, perché prima loro mi devono dimostrare che gli esperimenti sugli animali funzionano, quindi prima devono sottoporre gli esperimenti sugli animali a un processo di validazione, poi ammesso che siano in grado di dimostrare che funzionano, e non saranno in grado, ed è questo il motivo per cui non vogliono sottoporre i loro esperimenti a validazione, allora nel momento in cui abbiamo dimostrato che gli esperimenti sugli animali funzionano, allora possiamo anche parlare di come sostituirli. Ma fin quando loro non dimostrano che funzionano, pensare che funzionano è un atto di fede ed è un modo di approcciare la questione scientifica completamente fuori rispetto ai canoni della scienza. E però per poter validare un nuovo metodo sostitutivo va a quel punto invece dimostrato. Quindi si chiede una cosa in più rispetto al test tradizionale. Ed è paradossale, perché si paragona il risultato del metodo sostitutivo a quello che si ottiene con l'animale. Io valido un metodo di ricerca paragonando i risultati con un altro metodo di ricerca che non è mai stato validato. Un paradosso. Dottor Cagno, la ringrazio molto, e restiamo animali? Grazie a voi, sicuramente restiamo animali. Tra le varie iniziative celebrative vogliamo ricordare la conferenza del 17 maggio 2013 organizzata dalla Fondazione Hans Ruesch, che ha pensato a una giornata celebrativa a Milano dal titolo Hans Ruesch, testimone del XX secolo, e che presenta un programma ricchissimo che spazia dall'obiezione di coscienza ai metodi sostitutivi fino all'attivismo antivivisezionista, e si concluderà con la proiezione di un documentario, Il Grande Ruesch. In questa occasione sarà possibile sottoscrivere la petizione europea di iniziativa popolare Stop Vivisezione Section, che ricordiamo ha l'obiettivo di chiedere alla Commissione europea lo stop della vivisezione in tutta Europa. Tutti i dettagli sul nostro blog restiamoanimali.wordpress.com. Smiling on Friday and on Sunday again, yes, a great man always remembers his death. Perle agli umani, letteratura per la liberazione. The book of love is long and boring. No one can live to dancing. It's full of charts and facts and figures. And instructions for dogs. Siamo con Massimo Filippi, personaggio di rilievo nel mondo dell'animalismo e dell'antispecismo, in particolare in Italia, autore e traduttore di opere importanti. Oggi con lui discutiamo di un piccolo libro che è appena uscito per l'editore Ortica, si intitola Natura infranta e ha come sottotitolo Dalla domesticazione alla liberazione animale. Massimo, partiamo proprio da questo primo punto indicato nel sottotitolo. Tu a un certo punto scrivi che con la domesticazione animale si è aperta una ferita nella comunità dei coscienti. Cosa intendi dire? Questo piccolo libro, come dicevi, è parte di un lavoro di ricerca che dura da anni, che è volto a analizzare alcune parole chiave che hanno a che fare con l'antispecismo, il modo secondo cui gli animali vengono perennemente svalutati e quindi successivamente o contemporaneamente sfruttati. E in questo caso il lavoro è proprio sul concetto di natura, o forse meglio sulla dicotomia, su una delle tante dicotomie e contrapposizioni che caratterizzano il nostro pensiero, che è quello tra natura e cultura, per scoprire che non esiste una natura come la intendiamo spesso come concetto di stato di natura, cioè come una cosa che è data, perennemente immodificabile, grazie alla quale possiamo giustificare ogni nostra azione. Si dice spesso è naturale, non può essere che così, è naturale che sia così, per pensare appunto ad una storia naturale. E in questo caso gli animali entrano prepotentemente in questa vicenda e ci mostrano che esiste appunto una storia naturale all'interno della quale si inscrive anche la nostra. E un passaggio centrale in questa storia è proprio il punto della domesticazione, quando alcune società umane, da società di raccoglitori nomadi, si trasformano in società stanziali, nelle quali si crea una divisione in classi e una specializzazione lavorativa che, comportando una formazione anche in classi improduttive, richiede un prelievo sempre maggiore della natura per sostenere energeticamente queste società dissipative, che poi sono le società in cui ancora viviamo, e dall'altro ha bisogno di distanziarsi progressivamente dall'animale, di creare dei meccanismi ideologici e simbolici che permettano di condurre questa pratica di sfruttamento, che è poi quella che fornisce, se ci pensiamo all'inizio e tuttora oggi, la possibilità di mantenere una società così, così energivora e così dissipata. Credo che il termine capitalismo discenda dal termine caput, che vuol dire appunto proprio capo di bestiame, la prima forma di capitale mobile. Mi pare interessante una tua osservazione, e cioè il fatto che tu dici che lo specismo non è una forma di oppressione ulteriore rispetto al razzismo, sessismo, come anche noi arrestiamo animali più volte abbiamo affermato. Tu dici che lo specismo è l'oppressione dell'altro in quanto tale. Ecco, proprio il concetto di in quanto tale su cui metterei l'accento, nel senso che spesso abbiamo l'idea che lo specismo sia una realtà astorica presente dalla notte dei tempi, è rimasta da allora immodificata, e che altrettanto l'antifascismo sia una simile realtà di contrapposizione altrettanto immodificata ed immodificabile. Sicuramente una storia dell'oppressione dell'animale, e qui intendo l'animale intendendo anche l'animale umano, come tu ricordavi, voglio dire, il rimanere di una dicotomia tra l'umano e l'animale permette sempre di spostare alcuni gruppi umani all'interno della categoria dell'animale, quindi trattarli come normalmente trattiamo gli animali. Se pensiamo allo specismo non come a un pregiudizio storico, ma come ad una teoria giustificazionista, si deve modificare nel tempo per render conto di pratiche di sfruttamento animale sempre differenti, e appunto abbiamo citato il passaggio prima dal paleolitico al neolitico, ma poi ci sono stati altri passaggi come la nascita dell'umanismo moderno, la rivoluzione scientifica, quella industriale, l'imporsi del capitalismo, eccetera. In tutta questa serie di passaggi mi sembra che lo sfruttamento e la svalutazione dell'altro animale ci dia un punto di vista privilegiato dal quale guardare una serie di meccanismi che, pur essendo storicamente e politicamente diversi, come dire, in un certo modo si rifanno a quel paradigma comune che è la svalutazione dell'animale. Quindi sicuramente esistono delle interconnessioni, nessuno le nega, tra i fenomeni che tu ricordavi. Ma in tutti questi fenomeni è sempre la trasformazione dell'altro in animale il meccanismo di base che permette il funzionamento della macchina. Ecco, allora in questo senso lo specismo, o meglio l'antispecismo, diventa un paradigma interessante per osservare le modificazioni storiche e le modalità in cui l'oppressione si manifesta. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Thank you. vi propongo una ricetta semplice semplice, ma che vi consiglio di conservare perché è la classica svuota frigo, che non delude mai. Delle crocchette di farro e fagioli cannellini. Il bello è che potete variare la tipologia di cereali, legumi e verdure in base a quello che vi avanza in cucina. Gli ingredienti sono una tazza di farro già cotto, una tazza di fagioli cannellini già cotti, una tazza di cavolfiore, anche questo già cotto, una tazza di pane grattugiato, qualche cucchiaio di latte di soia, due cucchiai abbondanti di tahin, erbe aromatiche in abbondanza, un cucchiaino di aglio in polvere oppure uno spicchio d'aglio tritato, sale, pepe e paprika. Mettete in una ciotola il farro, i cannellini, il cavolfiore, il tahin. Frullate con un mini pimer e non è necessario che diventi una crema omogenea. Se vi sembra troppo duro, aggiungete qualche cucchiaio di latte. Aggiungete ora le erbe aromatiche tritate, l'aglio, sale, pepe, paprika e il pane grattugiato, tanto quanto ve ne occorre per creare un composto abbastanza sodo. Formate con le mani delle palline e appiattitele con il palmo della mano. Disponetele su una teglia rivestita di carta da forno, cospargete con un filo leggero d'olio extravergine d'oliva e cuocete in forno caldo a 180 gradi per circa 20 minuti. Lasciate raffreddare qualche minuto prima di servire. Ciao, alla prossima! Del popolo di Settignano e la trasmissione radiofonica Restiamo Animali sono liete di presentare il ciclo di incontri dal titolo Apericena Restiamo Animali. Serate gastronomico-culturali con cibo, libri, film, personaggi, discussione a tema animalista, antispecista e vegan. Il primo appuntamento è per mercoledì 15 maggio 2013 dalle ore 19:30 presso la Casa del Popolo di Settignano. Il titolo della serata sarà Il prezzo della libertà. L'azione diretta non violenta e le liberazioni animali, il confine fra giustizia e legalità, la disobbedienza civile, il fondamento dell'obiezione di coscienza, la vivisezione. Condurrà la serata parte della redazione di Restiamo Animali nelle figure di Camilla Lattanzi e Valentina Reggioli. Alle ore 19:30 ci sarà un aperitivo vegan cruelty free a 10 euro a cura della Casa del Popolo di Settignano. A seguire il professor Luigi Lombardi Vallauri, filosofo del diritto, incontrerà Lorenzo Loprete e Claudio Pomo del coordinamento Fermare Green Hill, protagonisti dell'azione di liberazione animale dell'aprile scorso allo stabulario dell'Università di Milano. Naturalmente ci sarà ampio spazio al dibattito con e fra i presenti. Mi raccomando, evitiamo gli sprechi. Prenotate la cena al telefono 055 69 7007. Chiunque poi volesse adottare un topino liberato a Milano può prenotarlo e gli verrà consegnato durante la serata. Per prenotare l'adozione e per tutte le info, adozioni-greenhill@gmail.com oppure al telefono 339-02-14-4345. Vi aspettiamo numerosi. Fotografie, ricette, interviste, video satirici, approfondimenti e il podcast di questa e di tutte le precedenti puntate nel nostro blog restiamoanimali.wordpress.com. Info e suggerimenti a restiamoanimali@controradio.it. Restiamo animali! Restiamo animali! Restiamo animali! Restiamo Animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Ogni domenica alle 12 su Controradio e nel quinto elemento su controradio.it. Contatti restiamoanimali@controradio.it.